Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, settimane un po' complicate quelle che stiamo vivendo da tutti i punti di vista e nel nostro piccolo anche per i viaggi e tutto quello che gira intorno. Noi però abbiamo fantasia, abbiamo chi sa raccontare e possiamo mettere via qualche buon consiglio per quando si potrà tornare ad andarsene in giro per l'Italia e per il mondo con la testa più leggera. Il sommario. Questa settimana voliamo in Perù per attraversare le tre diverse zone climatiche di questo paese sudamericano, grande quattro volte l'Italia. Poi torniamo a camminare sulle tracce dei valdesi. In chiusura, qualche segnalazione. La Pachamama, la terra madre, è la madre di tutte le creature viventi. È nostra madre, noi siamo i suoi figli. Dobbiamo amarla, volerle bene, rispettarla. Perciò dobbiamo conoscerla. Un antico precetto inca che dice molto ancora oggi del Perù. Questo viaggio lo facciamo con Gianmarco Caprotti, responsabile prodotto della Mistral. Perù è un paese assolutamente affascinante e incredibile per la diversità. Ma tanto stiamo parlando di un paese che è quattro volte l'Italia e che ha 11 siti che sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. E ovviamente ha un'icona, un posto che tutti conoscono e riconoscono, che è ovviamente il sito di Machu Picchu, che tutti sanno, tutti vogliono vedere, tutti sanno immaginare. E quindi è un paese ricchissimo di biodiversità, è un paese ricchissimo di archeologia, di storia, di tradizione, e che molte volte stupisce moltissimo il passeggero che non si aspetta di trovare tutta questa diversità in un paese così vasto e così incredibile. Una delle cose fondamentali di capire del Perù è che il Perù ha tre grandi fasce climatiche, che sono il 60% è foresta amazzonica, il 20% sono le Ande e il 20% sono un deserto costiero. E questo comporta che il paese è proprio ricco di posti diversi da andare a visitare. Ed è anche il paese sudamericano con la più lunga storia in assoluto. Stiamo parlando di 6.000 anni di storia e di scoperte archeologiche. E questo ti permette veramente di fare un viaggio assolutamente incredibile tra natura, storia e soprattutto negli ultimi anni anche gastronomia. Infatti il paese è diventato negli ultimi 10 anni una delle destinazioni gastronomiche più interessanti e più varie di tutto il mondo. Le chiedo, prima di entrare ovviamente più nello specifico del viaggio, com'è la gente, quindi com'è l'accoglienza, l'empatia quando si arriva in questo paese? I peruviani sono un popolo assolutamente incredibile. L'impatto immediato, quindi l'empatia, ci vuole leggermente un po' di tempo per entrare, perché sono un po' timidi da questo punto di vista, sono sudamericani un po' particolari, ma c'è sempre un sorriso, c'è sempre un'accoglienza veramente impressionante, gente molto pacata, che appena riesci a superare quella timidezza iniziale diventano i tuoi migliori amici assolutamente in un attimo. Quindi una gente con cui è bello stare insieme, con cui viaggiare, con cui attraversare questo paese, tra l'altro coloratissimo, perché loro hanno anche di questi costumi impressionanti e hanno tantissime feste in cui molte volte quando riesci a finirci dentro il viaggio cambia assolutamente immagine. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. E allora partiamo proprio da qui. Secondo lei qual è il periodo migliore per andare a visitare questo paese, considerando anche il fatto che, come lei ricordava, ci sono tre grandi aree climatiche, per cui bisognerà anche attrezzarsi in maniera diversa, immagino, per visitarle? Allora, il Perù ha la fortuna di essere visitabile praticamente 12 mesi l'anno. Come periodo migliore in assoluto è la nostra estate, quindi il loro inverno, quindi da aprile fino a ottobre, che è il periodo secco, in cui non piove, la temperatura è leggermente più bassa, ma i cieli sono assolutamente azzurri e non c'è un filo di nuvole. Ma anche novembre, dicembre, piuttosto che marzo e aprile, sono dei mesi fantastici, perché può piovere leggermente, ma piove un'ora e poi dopo aprono sempre questi cieli assolutamente impressionanti. Questi tre climi diversissimi comportano il fatto che tu puoi passare dai 25 gradi di Lima ai 4-5 gradi di notte, ovviamente, di Puno, per poi finire in foresta amazzonica dove ce ne sono sempre 20, 26, 30, con umidità molto forte. Quindi noi consigliamo sempre di vestirsi pronti per, diciamo, tre stagioni. Non è mai inverno in Perù, però può fare caldo, fresco e anche abbastanza freddo, soprattutto di notte. Quindi bisogna essere abbastanza attrezzati per muoversi in questo paese. Lei faceva riferimento a delle feste. Magari possiamo partire da qui per dare qualche indicazione, considerato sempre tenuto conto che è un paese visitabile tutto l'anno, ma forse ci sono dei periodi che sono, tra virgolette, più affascinanti di altri. A livello di feste, in realtà ci sono tutti i giorni. Quindi si può capitare veramente anche a Cusco, può capitare un giorno sì, un giorno no, di finire durante il giro della Plaza de Arma in una parata assolutamente incredibile. Quindi non c'è un periodo migliore per le feste, perché festeggiano tantissime cose tutti i giorni, tanto che l'ente del turismo ha censito qualcosa come 3.000 feste in tutto il Perù, quindi sono praticamente 10 al giorno. Sicuramente la festa della Candelaria, che è il loro carnevale, è assolutamente impressionante, ma cade a febbraio di solito, quindi in un periodo proprio non ideale per andare in Perù, perché è il periodo in cui piove leggermente di più. Però anche l'8 dicembre l'Immacolata, anche loro lo festeggiano in un modo assolutamente incredibile. Ho avuto la fortuna di finire in un piccolissimo paese vicino a Puno, in cui c'era tutto il paese addobbato a festa, con tutte le persone vestite da festa, che ballavano intorno alla loro piazza principale, e sono fuori delle foto assolutamente impressionanti. Quindi le feste sono una parte fondamentale del Perù e sono praticamente quasi tutti i giorni. Allora costruiamoci un giro, visto che comunque il paese è abbastanza grande. Se lei dovesse fissare dei punti per fare proprio il giro del paese, quali fisserebbe? Allora, tanto il tempo. La cosa fondamentale per un viaggio in Perù è avere tempo. Dicevo, è un paese 4 volte l'Italia, e noi diciamo sempre che per vedere le cose fondamentali dovresti avere 21 giorni di tempo per fare un giro in Perù. Tendenzialmente non molti hanno 21 giorni di tempo per girare il Perù, e quindi si concentra in 15 giorni. Sicuramente le cose fondamentali da vedere in Perù sono ultimamente anche la capitale. Lima è stata dimenticata per tanto tempo, ma in questi ultimi 10 anni è cresciuto tantissimo, è diventata una città molto molto divertente, molto ricca, con dei quartieri assolutamente interessanti, come il quartiere di Miraflores e soprattutto il quartiere Bohemian di Barranco. E si parte da lì perché i migliori ristoranti sono a Lima, perché è il punto di partenza di una città che nel tempo si è trasformata in una città poco interessante, una città molto molto viva e molto interessante. Una seconda tappa è assolutamente da fare sulla costa, quindi sul deserto, perché il deserto in Perù è proprio sulla costa. Quindi o il classico Nazca o un posto un po' dimenticato, ma secondo me molto più affascinante, che è il nord del Perù, quindi Trujillo e Chiclayo. Perché? Perché a Chiclayo, alla fine degli anni Ottanta, hanno scoperto quello che viene considerato il Tutankhamen delle Ande, cioè un re Moce, la tomba di un re Moce perfettamente intatta, e hanno costruito un museo bellissimo, che è proprio il Museo del Signore dei Sipani, che si trova nel nord del Perù, che pochi vanno a vedere, ma è assolutamente una cosa indimenticabile. Altra tappa fondamentale è la Città Bianca, che è la città di Arequipa, anche questa patrimonio mondiale dell'UNESCO. Città Bianca non perché, oltre a essere bianca, ma come costruzione, ma soprattutto perché è la città degli spagnoli, è stata costruita dagli spagnoli e non ha rovine incaiche, ma è una città costruita alla fine del 600, barocca, bellissima, con all'interno il convento di Santa Caterina, assolutamente indimenticabile. Altra tappa imprescindibile è Puno, e il lago Titicaca, quindi il lago che si trova a 3.900 metri d'altezza, il lago navigabile più alto del mondo, e ovviamente la tappa finale è la Valle Sacra, Cusco e Machu Picchu, che sono una triade bellissima di reperti archeologici, di storia e di cultura incaica, che assolutamente non possono essere tralasciati, che sono poi il must assoluto della destinazione. A questo sarebbe da attaccarci la foresta amazzonica e tantissime altre cose che comunque il Perù è ricco. Per chi vuole andare a fare trekking, per esempio, il Perù è una delle sensazioni assolutamente più belle, perché le montagne sono assolutamente indimenticabili. Ha già citato una destinazione che secondo lei è meno battuta rispetto alle altre. Io le chiedo se ce ne sono altre che sono magari facilmente, tra virgolette, raggiungibili e che secondo lei non hanno ancora quel risalto che invece meriterebbero. Allora, tutte le destinazioni turistiche del Perù sono abbastanza facilmente raggiungibili, perché i voli interni sono molto diffusi. proprio per raggiungere tantissimi posti. Non andrei ad aggiungere altro, perché secondo me la zona di Chiclayo e Trujillo, che sono queste due città nel nord del Perù, sono quelle che veramente nessuno va a vedere e che metterebbero assolutamente molte più passeggeri. Ho citato Sipan, quindi il signore Sipan, che è assolutamente la cosa più interessante, ma anche la città di Adobe, di Chan Chan, cioè una città costruita completamente in sabbia praticamente, che era la capitale sempre del regno Moche, è un altro punto che in questo caso si trova a Trujillo, che va assolutamente visitato, perché anche questo è assolutamente indimenticabile. Difficile raccontarlo senza immagini, ma potete immaginare una città proprio completamente costruita in sabbia, quindi con le mura che sono fatte di adobe, quindi questi mattoni fatti di sabbia, ancora perfettamente intatta, nonostante abbia più di 1000 anni. Com'è il mare in Perù? Allora, il Perù ha il difetto dal punto di vista del mare che c'è una corrente che viene dall'Antartica, che si chiama la corrente di Humboldt, che arriva praticamente fino quasi al confine con l'Ecuador. Quindi il mare è tendenzialmente abbastanza freddo. Piace molto ai peruviani, che ci vanno ovviamente perché è il loro mare, ma non è adattissimo agli italiani. C'è una piccola parte, che è la parte nord, nella zona che si chiama Mancora, Punta Sale, Piura, in cui il mare è leggermente più caldo. Può andare bene per una persona che si vuole rilassare, ma non è proprio il mare su cui uno si farebbe 20 ore di viaggio per arrivare. Tra l'altro una cosa interessante è che a Piura è famosa perché Hemingway si è ispirato ai pescatori di Piura per scrivere Il vecchio e il mare. Si può andare non aspettandosi molto, ma facendo un viaggio che è mare, ma è anche cultura dal mio punto di vista, non solo mare. Every morning there's a heartache hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. Torniamo a un altro tema che lei ha toccato e che di solito per noi è molto caro, che è quello della gastronomia. Ci racconti qualcosa di più? Anche per sapere un po' uno a che cosa va incontro. Allora, il Perù stupisce per il cibo. Io credo che non molti sappiano quanto è buono il cibo peruviano, però ci sono una serie di elementi che dovrebbero far capire da dove partiamo e perché siamo arrivati a quel punto della gastronomia peruviana. Allora, i tre ambienti che abbiamo raccontato sono ambienti molto diversi, e facciamo conto che anche le Ande sono coltivate. La quinoa viene dalle Ande, viene coltivata sopra i 4.000 metri, e quindi questo è un elemento fondamentale. La foresta amazzonica è la zona dove c'è la più alta ricca di biodiversità al mondo, e vengono anche fuori dei prodotti per il cibo. Coltivano anche la costa e anche il deserto, quindi con altre cose bellissime, e soprattutto hanno un pesce incredibile di fronte alle coste peruviane. E quindi tutte queste commistioni hanno permesso di avere una materia prima assolutamente unica al mondo. I peruviani sono fatti da una serie di etnie interessanti, che sono quelle che in realtà hanno dato i cibi migliori in giro per il mondo, che sono gli spagnoli ovviamente, tantissimi italiani, i locali che comunque hanno dato la loro partecipazione, cinesi e giapponesi. Questa commistione, questa fusion di queste culture hanno piano piano permesso di far crescere tantissimi chef incredibili, tanto che tre dei ristoranti migliori al mondo si trovano proprio a Lima. E quindi si trova una varietà di cibo assolutamente impressionante che mette insieme queste culture. Quindi ci si può aspettare da un sushi alla peruviana che si chiama ceviche, che sono delle stelline di pesce bianco tagliate molto fine e marinate in un limone particolare insieme a cipolla e a peperoncino. C'è la causa, che è una polentina con sopra sempre del pesce o del pollo secondo le esigenze. E la cosa bellissima del Perù, che comunque sono gusti che assomigliano molto ai gusti europei. Quindi non si va a uno scontro in cui si vanno a mangiare cose che non si è abituati, ma si mangiano cose e gusti che sono molto simili ai nostri, ma con una varietà che è sicuramente molto più ampia di tantissimi altri paesi. She always writes the wrong for me. Le ultime due cose che vorrei chiederle sono queste. Prima di tutto, se bisogna in qualche modo preoccuparsi dell'altitudine, quindi se è un paese adatto a tutti e se è facile girarlo. Allora, l'altitudine è un po' la difficoltà del viaggio in Perù. Dormire a 4.000 metri o comunque muoversi a 4.000 metri non è sempre facile e non è proprio adatto a tutte le persone in generale. Diciamo che se sei in ottima salute, un viaggio in Perù non ti dà nessun problema. Ovviamente chi ha dei problemi di cuore non potrà andare in questo paese. Per il resto è un paese che è abbastanza facile da girare, ma meglio da girare se accompagnati. Nel senso che comunque un minimo di organizzazione dall'Italia ci vuole, perché è un paese comunque abbastanza complicato, ma una volta che le cose difficili sono organizzate, poi muoversi tipo a Cusco piuttosto che a Lima e a Arequipa da soli è assolutamente facile. L'importante è avere una struttura precostituita dall'Italia per poter poi dopo anche da soli girare tranquillamente le cose che vogliono andare a vedere. Una cosa tecnica è che alcune delle cose più famose sono a numero chiuso, Machu Picchu è a numero chiuso. Quello che consigliamo è di girare ovviamente anche in libertà, ma con delle tappe già prefisse dall'Italia, in modo da avere uno schema di viaggio assolutamente sicuro, in modo da avere tutte le cose difficili già organizzate e poi eventualmente le cose più semplici organizzate da sole. Ci fermiamo per qualche istante, restate con... Globetrotter 24. È facile spostarsi in queste settimane, potrebbe essere però l'occasione per mettere i piedi in movimento e percorrere anche solo qualche tappa di uno dei cammini che attraversano il nostro paese. Terre di Mezzo pubblica una guida che ha a che fare con i valdesi. Una delle autrici è Roberta Ferraris. L'idea è nata da Terre di Mezzo, che ci ha chiesto, a me e all'altro autore che è Riccardo Carnovalini, qualche idea per un cammino, anche che fosse non fosse necessariamente un cammino religioso, anche un cammino laico, anche un cammino storico, perché la loro idea era di proporre appunto delle guide che portassero un po' la gente a approfondire, non solo a camminare, a macinare chilometri, ma a approfondire la storia, e quindi questa era un'occasione unica, nel senso che il glorioso rimpatrio, che è un fatto avvenuto alla fine del 600, 1689, è stato in più occasioni, in genere negli anniversari, dalla comunità valdese ripercorso. E c'erano già delle pubblicazioni che erano state fatte in modo anche magari un po' artigianale, e quindi abbiamo pensato: questo è un bellissimo cammino, perché praticamente parte da Ginevra, che è il luogo dove i valdesi erano esiliati, e arriva a Bobbio Pellice, in Val Pellice, dove questa spedizione militare, perché di questo si tratta di un gruppo di 1000 uomini armati, armatissimi, che prendono dal lago di Ginevra, fuggono dal luogo dell'esilio e tornano nelle terre a vite, quindi nella terra dei loro padri. E per fare questo ovviamente non scelgono il percorso più logico e non scelgono il percorso più facile, quindi è un percorso attraverso le Alpi, passa molto vicino al massiccio del Monte Bianco, attraversa valli deserte e alpine, quindi in alta quota. È un percorso magnifico dal punto di vista dei paesaggi, degli ambienti, non è un percorso facilissimo, però si può articolare, nel senso che non è che lo deve fare tutto necessariamente, ma può sceglierne delle parti. E si svolge principalmente in Francia, quindi nel Delfinato, e nell'ultima parte, diciamo dalla Val Susa alla Val Chisona, alla Val Germanasca, alla Val Pellice, che sono le ultime tre, sono appunto le valli valdesi. Allora Roberta, partiamo proprio dall'inizio. Da dove parte, come si svolge, quante tappe sono? Raccontacelo. Allora, io ho sotto mano la guida storica, è uscita credo nel 2007, quindi qualche anno fa, e aveva mi sembra 22 tappe o 20 tappe. I valdesi ce ne hanno messo 16 giorni, perché hanno corso questa 20 tappe. Io su questo percorso di 20 tappe ho deciso di farne 21, perché una era molto lunga e poi la recettività è anche cambiata nel tempo, si sono aperti dei rifugi nuovi e quindi ho deciso di allungarla un po'. E a queste ultime tappe, diciamo all'ultima tappa che finisce a Bobbio Pellice, sono state aggiunte nella nuova edizione altre tre tappe che vanno a Torre Pellice e poi a Villanova Piemonte, nella pianura piemontese lungo il Po. Perché? Perché quello è il percorso non del glorioso rimpatrio, ma delle deportazioni in realtà. Abbiamo aggiunto, in accordo col Centro Culturale Valdese, che comunque ha contribuito alla nuova edizione, il percorso che le popolazioni rastrellate hanno fatto per arrivare al porto d'imbarco, al porto fluviale sul Po, da cui venivano portate alle varie destinazioni che erano le prigioni, i vari castelli prigione in tutto il Piemonte. Quindi le ultime tre tappe sono il percorso della sofferenza, quindi il percorso che le popolazioni, donne, bambini, vecchi, tutti quanti, hanno fatto quando le valli sono state svuotate della loro popolazione. Quindi si racconta anche questa storia drammatica a margine della storia, diciamo, gloriosa del rientro di questo manipolo di uomini, che poi ha permesso il ritorno della popolazione nelle valli, ed è per questo che noi abbiamo ancora una denominazione religiosa valdese in Italia e nel mondo, perché sono veramente riusciti a riconquistarsi uno spazio nella storia che invece i potenti della terra a quel tempo non volevano più concedere loro. Non dormo gli occhi aperti per te, guardo fuori e guardo intorno. Se tu dovessi scegliere alcune tappe, ad esempio in territorio francese, quali sceglieresti? Ma io sceglierei, anche per suggerire qualcosa di facile, le prime tappe, quindi, perché Ginevra è un posto molto bello e vale la pena visitare, poi c'è il lago Lemano, e in pratica le prime tappe del percorso si svolgono in quella che è un territorio collinare, quindi un territorio pieno di piccoli paesi con della Savoia, quindi sono paesi molto belli, con tutti i gerani alle finestre, con queste belle piazzette, con un sacco di chambre d'hôte molto accoglienti, ristorantini, quindi sono posti molto belli e si cammina facile, al di là del fatto che il percorso non è segnato e quindi uno deve seguire attentamente le indicazioni della guida, è un cammino per tutti, quindi si può attraversare un territorio diciamo senza grosse difficoltà alpine, ecco, non ci sono i dislivelli che invece ci sono nella parte alpina. Questo è nel territorio francese. Poi è molto bello il tratto anche di attraversamento dalla Francia all'Italia, passando per il Moncenisio. Sono bellissime anche le tappe italiane, quelle nelle valli valdesi, e quelle sono tappe speciali perché poi lì si è a contatto con la cultura valdese, mentre segni della cultura valdese in Francia non ce ne sono. Loro hanno attraversato un territorio che era cattolico e che era tendenzialmente ostile, mentre diciamo da Saint-Bertrand, che è stato il punto dove loro hanno avuto una battaglia che hanno vinto e hanno passato la Dora Riparia, quindi sono riusciti a risalire al colle del Pis e poi scendere nelle valli valdesi, dicono, da quel punto si trovano le testimonianze della vita e della religiosità e della cultura valdese, che sono tanti piccoli musei, sono queste piccole scuole che ogni paese aveva, e sono le persone che poi si incontrano, che chiaramente sono ben disposte a raccontarsi al dialogo. Adesso è per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te. In Val di Susa, perché è un posto che mi è molto caro, che tipo di giro si fa in questa valle? Quali posti si attraversano? Allora, si scende a Saint-Bertrand passando dal Col Clapier, dal Moncenisio si scende dal Col Clapier, quindi un percorso di montagna che arriva appunto a Saint-Bertrand. Da Saint-Bertrand c'è un percorso bellissimo che sale nel Gran Bosco, quindi un parco, un'area protetta, e poi chiaramente scollina, nel senso che non si ferma nella valle, ma sale al Col di Costa Piana e poi scende a Pragelato, quindi in Val Chisone, quindi attraversa la valle con un percorso montano. E bellissimo il Gran Bosco di Saint-Bertrand, quello è un percorso, quella parte lì si può fare, è fattibile da tutti, perché anche i percorsi sono molto ben segnati e quindi io lo consiglierei, insomma. Poi a Saint-Bertrand si arriva in treno, è anche facile raggiungere la località. Insomma, è un'occasione anche per conoscere un pezzo di storia che in qualche modo ci riguarda. Sì, decisamente, anche perché è una storia che sembra molto locale, nel senso che riguarda delle valli alpine poco note, però a suo tempo, cioè quando questi fatti si sono svolti, la vicenda dei valdesi era una vicenda nota a livello internazionale. Allora la vicenda di questa antica setta, perché è una setta che nasce nel Medioevo, più o meno al periodo di Francesco, di San Francesco, nel XII secolo, e questa setta era riuscita a sopravvivere a tutte le persecuzioni delle varie eresie che non ci sono più, nel senso che né i Catari né gli Ussiti, sono tutte eresie scomparse. I Valdesi, che poi appunto sopravvivendo nelle loro valli appartate avevano aderito alla riforma, quando sono state perseguitate nel XVII secolo sono diventate un caso internazionale e quindi la loro vicenda era nota, quindi è veramente un capitolo di storia molto importante per l'Europa, perché loro hanno combattuto per la libertà di culto, per poter praticare la loro religione in libertà. In chiusura qualche segnalazione. Se non ci saranno altre restrizioni, domenica 8 marzo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, incontro aperto al pubblico con la fotografa centenaria Marcella Pedone all'interno del programma Museo City. Una delle pochissime occasioni in cui la fotografa si racconterà come donna e come fotografa documentarista di 100 anni di storia italiana. A Roma invece si apre giovedì la grande mostra dedicata a Raffaello, 200 le opere esposte alle scuderie del Quirinale. E per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. Un ringraziamento in regia a Gianmarco Ferronato, a tutti voi l'augurio di una bella settimana.